Pronto? Mi senti? Pronto? Pronto? Io non sento. Sì, allora, ti volevo chiedere... Guarda, noi però non sentiamo te, prova a parlare, scusa. Io vi sento, sì, ecco, sì, vi sento, va bene. Pronto. Sì, allora, ci vuoi dire come stanno andando, se c'è una manifestazione o più d'una a Torino? Ma io sono a Bologna, compagni. Ah, sei a Bologna, vabbè, allora, intanto raccontaci di Bologna. Perfetto, a Bologna è partito verso le 9:30 un corteo di 15.000 studenti delle scuole medie, ma anche di studenti universitari. Ha percorso fino ad ora tutto il centro della città, sanzionando le banche e altri uffici legati naturalmente all'amministrazione dello sfruttamento in questo periodo di crisi. Adesso invece ci troviamo sui viali della città, praticamente stiamo occupando la zona centrale, ecco, della viabilità bolognese, il traffico è completamente bloccato e adesso il corteo si è fermato davanti all'ufficio del Ministero, distaccato del Ministero del Lavoro. Ecco, adesso sto vedendo che si stanno spostando dalla testa del corteo, si stanno avvicinando alla porta dell'ufficio. Il corteo è veramente molto carico di energia, di voglia di lottare, tantissimi gli slogan contro la crisi e l'austerità, come dire, siamo soltanto a metà giornata e probabilmente fra poco, se ci risentiamo, avremo degli aggiornamenti. Va bene. Senti, insomma, oggi la giornata comunque è molto importante anche perché è di livello internazionale, no? Da questo punto di vista, insomma, voi avete seguito molto questo percorso proprio nelle sue scadenze anche internazionali, quindi oggi immagino che a Bologna, insomma, sia anche un po' la giornata per raccogliere i frutti di tutto questo periodo di intervento, no? Certo, e qui in città è ormai da anni che lavoriamo insieme alle reti transnazionali per tentare di dare continuità a questi straordinari movimenti contro la crisi e l'austerità, fin dal grande meeting di Tunisi dello scorso anno, poi ancora a Barcellona e poi siamo veramente da pochi giorni di ritorno da Agora 99. Nella nostra città, tra le scuole superiori e l'università, senza di parlare il linguaggio delle lotte transnazionali, lo ha fatto lo scorso anno con tantissime azioni, non solo di solidarietà, ma anche azioni che volevano entrare proprio all'interno dello spazio di lotta transnazionale, e credo che oggi è sicuramente una giornata importante perché 15.000 studenti che parlano le lingue di tutto il mondo, gli slogan sono fatti in italiano, in francese, in greco e in spagnolo, è sicuramente una conquista per dei movimenti per rompere le frontiere della crisi e le frontiere della fortezza Europa. Ecco, da Agora 99, il meeting di Madrid, abbiamo avuto sicuramente delle indicazioni molto importanti, è stata un'esperienza veramente intensa di confronto e di dibattito e oggi in piazza ne troviamo in parte anche i risultati. Va bene, a più tardi allora, Fulvio. Ciao, un abbraccio. Ciao.